Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. A dispetto dell'alta velocità e di tutte le altre innovazioni tecnologiche, chi viaggia in treno in Italia è ancora costretto, come sempre, a subire ritardi e disservizi di ogni genere. E spesso il capotreno, anziché scusarsi con i passeggeri, assume un tono arrogante nei loro confronti. Ma a volte è possibile ripagarlo con la sua stessa moneta, come racconta Sandro Cappelletto in questo episodio tratto dal libro Altra velocità, avventure di un viaggiatore in treno, e anticipato nei giorni scorsi dal quotidiano La Stampa. Il viaggio si annuncia sereno. La seconda carrozza di testa dell'Intercity Plus 533 Torino-Roma Termini, che prendo ad Alessandria alle 16.02, è vuota. Ho acquistato un biglietto di prima classe, ho molto bagaglio. Quel mercoledì di fine agosto in crude lisce di caldo. Voglio viaggiare comodo. L'arrivo è puntuale. Sono nella migliore disposizione d'animo per concedere a Trenitalia l'opportunità di un riscatto. Sistemo la valigia grande nel ripiano sopra i sedili, la piccola sotto la sedia, la sacca dei libri accanto a me. Apro il tavolinetto, prendo l'agenda e il giornale, la settimana enigmistica, andando subito a cercare il bersaglio, il mio gioco preferito. Poi l'appassionante studio di Sergio Vartolo sulla genesi dell'arte della fuga di Bach e i motivi della sua incompiutezza. Spengo il telefonino, tolgo le scarpe, allungo le gambe. 6:26, un tempo di percorrenza superiore di 30 minuti rispetto all'anno scorso, ma saranno almeno tranquille e fresche. Poco traffico umano e l'aria condizionata funziona bene. Mi assopisco. Biglietto, prego. Lei non è bella, potrebbe esserlo di più se credesse meno al ruolo che le garantisce il berretto da capotreno. Sono in regola, ma il risveglio inatteso non mi priva del piacere di farla attendere. Come sempre, la ricerca è lunga, anche se so benissimo dov'è. Nella tasca posteriore sinistra dei pantaloni. Non parla. Inizia a spazientirsi, attendo ancora. Infine lo trovo e lo mostro. La sua carta viaggio, prego. Un osso duro. Ha notato che il prezzo del mio biglietto di prima classe ha lo sconto del 10%, come era concesso ai titolari dell'executive prima che gli responsabili del servizio anticlienti di Trenitalia estirpassero anche questo beneficio, rendendo così del tutto inutile la spesa di 89 euro necessaria ad ottenere quel tipo di carta viaggio. Lentamente la cerco tra le cards che tengo nel portadocumenti, nella tasca posteriore destra. La esibisco. Documento, prego. Resto tranquillo, non sarà quell'arpia a inacidirmi il viaggio. Sta soltanto facendo il proprio dovere, mi ripeto, mentre ancora più lento le mostro la patente che certifica la mia identità. Mi restituisce biglietto, executive e documento. Poi, con ghigno lieve, che non mi sfugge, dice: non può restare qui. Troverà dei posti nell'altra carrozza di prima. Dal 92 in poi non sono prenotabili e ce ne sono di liberi. Questo è il mio posto prenotato, replico senza guardarla. Questa carrozza è fuori servizio. Tutte e quattro le porte sono inutilizzabili. Il regolamento ferroviario è chiaro. Per ragioni di sicurezza, una carrozza in queste condizioni non può espletare servizio viaggiatori. Lei si deve spostare. Questa carrozza è come non ci fosse. Rimane in funzione solo lo scompartimento di servizio. La provocatrice appare determinata. La guardo. Lei mi ha visto salire con tutto il bagaglio. Perché non mi ha avvisato subito? Perché ha lasciato che sistemassi tutto qui? Lei dice: il segnale era aperto. Il treno ripartiva, non potevo occuparmi di lei. Bene, dico. Continui a non occuparsi di me. Io da qui non mi muovo. Non risponde e se ne va. Evidentemente la questione non è risolta. Lei non è tipo da arrendersi. Riappare dopo pochi minuti. Non è sola. Dietro di lei un agente in borghese della polizia ferroviaria. Ce ne sono in ogni treno a lungo percorso. Mostra il tesserino, mi invita ad alzarmi e a raggiungere l'altra carrozza. Niente di personale, naturalmente, ma il regolamento è chiaro, per la sicurezza di tutti. Sgombero in silenzio. Lei è trionfante, ma si sforza di nascondere la sadica gioia. Avrai la tua paga, ossessa che sei. Per il momento, prendo tempo. Dove avete formato il treno? Chiedo senza alcun rancore al capotreno. A Porta Nuova, naturalmente. Quando vi siete accorti del disservizio? A Porta Nuova. Le carrozze di prima sono soltanto due, perché non l'avete sostituita? La residenza di questa carrozza è Roma Tiburtina, lì deve ritornare e lì sarà riparata. Da dove arriva? Da Tiburtina. Quindi ha fatto sia l'andata che il ritorno in queste condizioni? Sì. Inutilizzabile? Esattamente. Perché, tenendo questa, non avete aggiunto un'altra carrozza? 11. Il numero massimo di carrozze che questa motrice può tirare è 11. Guardo il poliziotto, ma allarghiamo le braccia. Raggruppo, risistemo, sposto i bagagli. Nell'altra carrozza di prima l'aria condizionata non funziona, ma c'è ancora qualche posto libero. Siedo vicino al corridoio. A Porta Principe c'è il consueto saliscendi di viaggiatori, ma il numero complessivo non aumenta. Alle 18.04 arriviamo alla Spezia, in orario. Si riparte. Ho sete e caldo, mi metto in cammino verso la vettura self-service. La carrozza di prima classe, con le quattro porte fuori servizio, dalla quale sono stato fatto sloggiare, è piena. Vado dalla capotreno, deciso a saltare i preamboli. Li faccio spostare tutti, subito. Sono molti. Subito o chiamo la ferroviaria. Sono abbonati, lavorano ai cantieri della Marina Militare di La Spezia, scendono a Viareggio, una mezz'oretta. L'altra carrozza è piena. Tutti e subito. Si alzi e li faccia abbandonare questa carrozza, altrimenti un esposto per violazione del regolamento non glielo toglie nessuno. Replico, sedendomi di fronte a lei. Questa volta niente tregua. È costretta ad ubbidirmi. Si alza e a voce bassa, a un viaggiatore per volta, spiega la vicenda. I primi le obbediscono e raggiungono l'altra carrozza, ma per tornare subito indietro. Non solo l'aria condizionata è rotta, ma nel frattempo gli scompartimenti si sono riempiti di accaldati clienti, prenotati e non prenotati, accomunati da quella sofferenza. Il capotreno prosegue intanto la sua opera di persuasione, interrotta quando il primo gruppetto di migranti ritorna ad occupare il posto che aveva da poco lasciato. Lei prova ad alzare la voce, ma ormai parla nel vuoto. Nessuno la sta più a sentire, mentre continua a guardarle immobile, inespressivo, fino a quando lei si arrende e ritorna al proprio posto davanti a me. Sta piangendo, in silenzio. Vuole il mio numero di matricola? Chiede con un sussulto di dignità che ammiro. Le porgo il mio pacchetto di fazzoletti di carta e proseguo verso la carrozza self-service. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Sandro Cappelletto «Ho fatto piangere la capotreno» dalla Stampa del 27 ottobre. Due anni fa, nel Viterbese, una quindicenne viene violentata da 8 ragazzi. E ora tutto il paese si schiera a fianco degli stupratori, incluso il sindaco che aveva stanziato 40.000 euro dai fondi del comune per pagare la loro difesa. Quella lì si è divertita pure lei. L'antica, primordiale, selvatica vox populi macista, ma volentieri adottata pure dalle donne, è uscita dal video tornando a marchiare a fuoco la vittima di uno stupro plurimo. In questo caso, la quindicenne di Montalto di Castro, che nel 2007 è stata violentata da 8 ragazzi, i quali, pur affidati ai servizi sociali, girano liberi per il paese. La colpa è sua, se l'è cercata. È una ragazza frivola. Alle ammucchiate quella c'è abituata. Così hanno parlato in televisione i compaesani della ragazzina. I bravi padri e le brave madri di famiglia, aggiungendo anche di peggio. E una donna, l'unica che la difendeva, è stata quasi minacciata. Non ci sono dubbi sul fatto che lei non fosse consenziente. I violentatori l'hanno ammesso e chiesto scusa. Eppure il paese la condanna. Non mormorando sottovoce nelle chiacchiere di casa e di strada, bensì pubblicamente e fieramente in una trasmissione televisiva. In parte sarà anche merito del sindaco che, forse perché zio di uno della banda degli 8, si era offerto l'indomani dello stupro di partecipare alla spesa per gli avvocati della difesa. Ma basta la presa di posizione di un sindaco a trascinare un intero paese contro la piccola strega seduttrice in un rigurgito di cupa misoginia? Sembra che ci sia altro e di peggio. Il ritorno a un tempo in cui la colpa, in caso di violenza sessuale, intera o in parte, ricadeva sulla vittima, che con i modi o con l'abbigliamento doveva avere diabolicamente provocato i suoi violentatori, anche nel caso che lei avesse soltanto 15 anni e loro fossero nel bel numero di 8. Non è possibile, secondo quell'atavico costume, reprimere la baldanzosa natura cacciatrice dei giovani maschi, mentre è gioco forza che quella delle giovani donne vada repressa sul nascere, pena le conseguenze che sappiamo. Una torva mentalità che qualche anno fa sembrava, se non proprio debellata, almeno in declino. Adesso, invece, qual malattia soltanto temporaneamente assopita, ma chissà, dopo tutto, forse davvero incurabile, sembra rinascere con nuova virulenza. senza vergogna soprattutto, ma anzi con arroganza, tanto da poterla tranquillamente sbandierare in televisione. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Isabella Bossi Fedrigotti, Violentata, si è divertita pure lei, torna una mentalità pericolosa, dal Corriere della Sera del 26 ottobre. Letture di Radio 24. Istituita 30 anni fa per tentare di limitare l'espansione demografica, la politica del controllo delle nascite attuata dal governo cinese vieta alle donne di avere più di un figlio. Le misure repressive contro i trasgressori costituiscono una delle più gravi violazioni dei diritti umani e prevedono aborti forzati, pestaggi e spesso uccisione dei neonati nati vivi. La politica del figlio unico in Cina non solo conferisce alle cellule locali il potere di decidere se una gravidanza sia permessa o no e se un feto debba essere abortito. Esse hanno anche la facoltà di ordinare agli operatori sanitari di uccidere i neonati non approvati. Ecco alcuni casi che hanno attirato la pubblica attenzione. Nell'ottobre 2002, nello Zhejiang, un impiegato della stazione radio di Xinjiang, Dong Tiefeng, e la sua famiglia hanno subito l'ennesima atroce conseguenza dell'applicazione della legge sul figlio unico. Ecco la traduzione della storia della morte del suo ultimo nato, raccontata da Dong al China Legal Forum. Il 19 ottobre 2002, a luna di notte, ho portato mia moglie a partorire al presidio sanitario della contea Xinjiang. Un'infermiera l'ha visitata e ha detto: «Il collo dell'utero è dilatato, la testa del bambino è visibile». Così ho portato mia moglie in sala parto. Anche mia madre e mia suocera stavano con lei e a me chiesero di mostrare il certificato col permesso di fare figli. Quando si è resa conto che non l'avevo, l'infermiera ci ha immediatamente denunciato alle autorità. 5 minuti dopo sono arrivati 2 uomini e una donna che, senza presentarsi né mostrare credenziali, mi hanno chiesto le generalità e interrogato. Dissero che il capo dipartimento avrebbe sistemato la situazione e fecero una telefonata. All'1:30 sono arrivati un altro uomo e un'altra donna. Le 5 persone più l'infermiera si sono messi a parlare fra di loro. Poco dopo, un altro gruppo di persone, dopo aver fatto irruzione in sala parto, ha trascinato violentemente me, mia madre e mia suocera fuori dalla stanza. Torsero le braccia alle 2 donne e fecero sbattere la testa di mia suocera contro il serbatoio dell'ossigeno. In 3 mi tenevano immobilizzato, la porta fu chiusa. 10 minuti più tardi, io e mia madre, sfruttando un momento di disattenzione dei nostri guardiani, siamo riusciti a divincolarci e rompere nella sala parto, giusto in tempo per vedere l'infermiera che sfilava un paio di forbici che grondavano sangue dal cranio di mio figlio. Il cervello del bambino fluiva lentamente dalla profonda ferita. Mia madre urlò inorridita e svenne. Le altre persone entrate nella sala, dopo aver dato un'occhiata alla situazione, se ne sono andate. Alle 3:30... 2 agenti della stazione di polizia della zona mi hanno intimato di non agire stupidamente. Alla fine ho chiesto a un dottore chi fossero tutte quelle persone. Mi rispose che erano della Commissione Municipale di Pianificazione Familiare di Xinjiang. Gli chiesi ancora: «Avete ucciso il mio bambino con un paio di forbici. Quelli della pianificazione familiare non vi hanno dato un ordine scritto, un mandato su base legale. Ci hanno dato ordini a voce. Non possiamo disubbidire, sono nostri superiori. E questo è tutto». Tagliò corto il dottore. L'esperienza di Dong è un esempio. Abusi del genere si verificano per tutta la Cina, soprattutto nelle aree rurali. Sono eventi che hanno natura sistematica. Nel 2001 ha avuto un'ampia risonanza un caso di tentato infanticidio in una città del nord-est, Harbin, nello Heilongjiang. Zhang Chunhong, incinta alla 35esima settimana, fu catturata vicino a casa sua, a Wang, e fu portata in ospedale ad Harbin. Le fecero un'iniezione per farla abortire e invece la bimba nacque viva. Un articolo apparso sul giornale inglese The Independent ha riportato il racconto di Zhang. Ho chiesto di vedere la bimba, ma le infermiere si sono rifiutate. Quando è nata, mi era sembrato di averla vista in buona salute, ma mi hanno detto che aveva assorbito l'iniezione letale. Perciò, se non era ancora morta, sarebbe stata certamente ritardata. Il giorno dopo, mi dissero che era morta. Il direttore dell'ospedale, Yuan Yinghua, aveva saputo dell'aborto fallito e ordinò un'infermiera, Wang Weimin, di far morire la neonata. Wang la avvolse in uno straccio e la mise sul balcone. «La prima volta che la vidi non aveva neanche 3 giorni», ricorda l'infermiera Ling Ziyong. Quando il direttore si accorse che la bimba era ancora viva e aveva la bocca sporca di latte, minacciò di licenziare chiunque la nutrisse ancora. Ma il personale continuava a rischiare il posto di lavoro, a procurare un po' di latte e a darle qualcosa di nascosto. Lo facevamo quando il dottor Yuan era andato a casa o quando sapevamo che era molto impegnato, racconta Ling. La bimba, che era stata chiamata Ji, si era incredibilmente attaccata alla vita. Eravamo tutti stupiti di quanto fosse forte. Ogni giorno, appena arrivava al lavoro, ciascuno di noi si informava se Ji fosse ancora viva. Lo scandalo scoppiò il 9 maggio, quando un giornalista locale telefonò a uno dei dottori. Ho deciso di dirgli la verità perché volevo dare alla piccola una speranza di sopravvivere. Quanto avrebbe potuto continuare in quel modo, ricorda Wang. E così fecero entrare il giornalista nella stanza degli aborti, ma Ji non c'era più. Cominciarono a cercarla disperatamente e la trovarono chiusa in una scatola per sterilizzare gli strumenti, mezza soffocata, ma ancora viva. La cosa era talmente agghiacciante che la TV si rifiutò di trasmetterla. 5 giornalisti, però, continuarono a seguire la vicenda. I media cinesi sono imbavagliati sulle questioni politiche, ma quando trapelano storie di interesse umano e sociale, non hanno il coraggio di mettersi contro tutta la gente. Il 10 maggio, più di 15 giorni dopo la sua incredibile nascita, le condizioni di Ji migliorarono. Ricevette abiti, cibo e una culla. Il giorno dopo fu portata nell'ufficio di Yuan e di lì alcuni membri della segreteria del Partito Comunista la portarono via dall'ospedale. I giornalisti preoccupati avvisarono la polizia di Harbin. La pressione fu tale che 2 giorni dopo furono rintracciati i genitori e fu loro consegnata la bambina in mezzo a una folla di funzionari del governo e di personale dell'ospedale. Altri 2 casi riportati dalla rete di informazione sanitaria del Guangdong raccontano di ospedali che applicano la legge sulla pianificazione familiare uccidendo bambini nati vivi. Nel maggio del 1983 una donna di nome Li rimase incinta per la 5ª volta. A dicembre la portarono in ospedale per procurarle l'aborto, ma il bambino nacque vivo e piangeva. I medici, su ordine dei superiori, lo uccisero. Profondamente colpita, la madre poco dopo impazzì, divenne schizofrenica. Una donna di 38 anni, di nome Zhu, aveva un bambino e 2 bambine. Nel luglio 1980 il bambino affogò in piscina a scuola. La scuola risarcì Zhu, ma lei desiderava avere un altro figlio. Non le fu dato il permesso. 6 mesi dopo era incinta ugualmente. Ad agosto la sottoposero ad aborto forzatamente. Il bambino nacque vivo. Lei provò in tutti i modi a salvarlo e a farselo restituire, ma l'ospedale glielo rifiutò. Avete ascoltato alcuni passaggi dal libro di Harry Wu, Strage di innocenti, la politica del figlio unico in Cina. Guerini e associati, 192 pagine, €21,50. Il libro è pubblicato per conto della Laogai Research Foundation, una onlus impegnata in una campagna di informazione sui campi di concentramento cinesi e sulla continua violazione dei diritti umani nella Cina comunista.